except for it's lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. My God is gonna own me. There's nothing left to say now. Ciao, buonasera, benvenute e benvenuti ad una nuova puntata della Mucca Libera, la trasmissione antispecista in onda su www.radioasilo.it il lunedì alle 19 e in replica il martedì alle ore 11. Allora, questa settimana abbiamo come al solito diverse notizie provenienti dal mondo animale, il mondo della resistenza animale. Voglio prima di cominciare con le news, voglio dare i nostri riferimenti che sono quelli della mail, che è la mucca libera @autoproduzioni.net e il canale Telegram che è la mucca libera. Allora, detto questo, cominciamo con una news molto importante proveniente dal mondo della resistenza animale. Come vi ricorderete, abbiamo già parlato nelle scorse puntate della fuga dei tori nella zona di Venaria, in provincia di Torino. Dopo un mese e mezzo dalla loro fuga restano tre tori liberi, tre tori resistenti in fuga, e abbiamo cercato, insomma, un po' riscontri sulla loro fuga, sul loro stato. Risultano ancora liberi e fortunatamente, insomma, non se ne parla molto rispetto ai giorni scorsi, quindi come al solito tifiamo per loro e tifiamo per la loro libertà. Tre tori liberi nelle campagne del torinese. Mi ricollego invece a una notizia che è di due giorni fa, che ci porta in provincia di Treviso, nel comune di Roncade, dove 10 tori sono fuggiti da un camion che li portava in un'azienda nella zona di Catron, sempre nella zona di Roncade, in provincia di Treviso. Questa fuga è stata subito, come al solito, hanno cercato di riprenderli con tutti i soliti mezzi militari a disposizione di azienda e forze dell'ordine. Sui media locali ci sono una serie di notizie che abbiamo che abbiamo cercato anche per avere un riscontro oggettivo. Ci sono anche molte contraddizioni nelle notizie che ci arrivano dai media locali, l'ultima delle quali, insomma, ci parla del ritrovo, della cattura di 9 tori su 10. Alcuni media locali parlano anche dell'uccisione di 3 di questi tori, quindi non solo sono stati ritrovati e catturati, ma sono stati anche uccisi in parte, insomma, 3, ci dicono alcuni media locali. Poi è anche una notizia che nelle ultime ore è in continuo aggiornamento, diciamo. L'ultima notizia che abbiamo, che possiamo dare, è che un toro è ancora libero, è in fuga. E le ricerche sono state dichiarate concluse. C'è anche chi ipotizza che il toro sia morto, anche se, insomma, stesso alcuni responsabili di questa caccia al toro ipotizza invece che sia ancora libero nella zona agricola e boschiva del posto. Sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia è ripresa dopo alcune ore la normale circolazione dei treni, quindi diciamo che la caccia, è conclusa e speriamo che effettivamente questo toro, oltre che essere resistente, abbia fatto assieme ai suoi altri compagni di fuga, questa azione di resistenza molto bella e molto coraggiosa. Speriamo appunto che sia andata a buon fine, almeno per lui. Questa bellissima fuga. Torniamo in onda e parliamo di una situazione ambientale nell'isola d'Elba, dove nella zona costiera, sulle spiagge dell'isola, ci sono da tempo una serie di tartarughe marine che abitano la zona, ma i continui ripascimenti della spiaggia di Marina di Campo, quindi uno degli arenili che è destinato, secondo gli studi del CNR, a finire sott'acqua entro il 2050, quindi si fanno questi continui ripascimenti che hanno creato una spiaggia artificiale che però alla prima moderata mareggiata estiva ha subito un primo danneggiamento e questo danneggiamento adesso impedisce la risalita per le tartarughe marine intenzionate a depositare le loro uova. Quindi abbiamo un problema per queste tartarughe che è stato causato dall'intervento di ripascimento che, insomma, spieghiamo, qui è stato chiesto già da tempo di spostare il periodo del ripascimento in questo periodo proprio per evitare che ci sia questo problema per le tartarughe. Ovviamente le istituzioni, come al solito, se ne fregano, vengono riportate anche delle proteste di gruppi ambientalisti della zona che avevano chiesto appunto, di posticipare questo ripascimento. C'è anche un cantiere, insomma, attivo, quindi dà fastidio non solo alle tartarughe, ma anche ai turisti che adesso stanno andando in zona. Diciamo che alla fine sono situazioni che si potrebbero evitare con un minimo di buon senso. Parliamo di salute, c'è stata una importante ricerca, una scoperta che ha evidenziato per la prima volta una serie di mutazioni al DNA nei malati di tumore associate al consumo di carne rossa. Queste Questa ricerca scientifica ha dimostrato, è una ricerca scientifica che è fatta da un istituto americano per la lotta al cancro. Questa ricerca ci parla di un impatto sulla salute dei prodotti di origine animale. È una situazione di cui abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione. Purtroppo le conseguenze dell'assunzione di prodotti di origine animale è sempre molto impattante e questa ricerca lo conferma addirittura in una situazione che ci parla di mutazioni genetiche e di tumori, quindi siamo veramente a situazioni molto invasive collegate al consumo al consumo animale, insomma di prodotti animali, ed è una situazione che veramente è molto, molto brutta e terrificante. Di nuovo in onda. Adesso mandiamo uno stacco musicale di un gruppo che abbiamo sentito spesso nella nostra trasmissione, che a me piace molto, sono gli Oasis, e questo brano è Supersonic. Gonna tell her what I'm on about. Eccoci di nuovo in onda, è la nostra trasmissione, parliamo ancora di notizie, questa ci viene dall'Inghilterra, dalla Cornovaglia. Qualche giorno fa avrete sicuramente ascoltato e sentito in TV e negli altri media il G7, i padroni del mondo, sette presidenti delle nazioni più industrializzate. Hanno fatto il loro incontro, c'è stato anche Draghi per l'Italia questa volta, Boris Johnson ha fatto da Cicerone e c'è stato un intervento sui media, sui social network di Greta Thunberg rispetto a questa loro riunione. Perché? Spiego subito, perché c'è stato diciamo una cena che è andata un poco, è stata commentata perché i G7 ci hanno tenuto a far sapere il loro menù e si tratta sempre di prodotti a base animale, pesci, formaggi, una bella grigliata sulla spiaggia con un menù di mare, granchio, aragoste e tutto concluso con una bella bistecca di manzo. Tutti questi pasti sono stati spacciati come sostenibili e a chilometro zero, perché le carni, secondo questi G7, erano provenienti da allevamenti locali. Qui è intervenuta la giovane attivista svedese, con una serie di post pubblicati sui canali social, ha manifestato tutta la sua delusione per il comportamento, a suo dire, ipocrita dei leader delle nazioni, con una vuota agenda sul clima. Ovviamente i capi di Stato, se ne fregano di tutta questa mobilitazione che comunque ormai è a livello internazionale. Ricordiamo che Greta è una attivista vegan e quindi ci tiene sempre a sottolineare quello che è il legame che esiste tra sfruttamento animale, cambiamenti climatici dovuti appunto dagli allevamenti animali e la situazione in generale sull'ambiente, che secondo la FAO, ricordiamo, gli allevamenti animali contribuiscono al 15% delle emissioni totali dei gas serra. Quindi la situazione è che Greta ha voluto dimostrare ancora una volta l'ipocrisia di questi padroni del mondo. Parliamo di un'altra specie, mi riferisco ai pappagalli alpini che si trovano in Nuova Zelanda. C'è stata una ricerca, sui media è circolata questa ricerca, perché questi pappagalli si stanno dirigendo verso le montagne, sempre del paese della Nuova Zelanda, per evitare il contatto con gli esseri umani. Ci si interroga, i ricercatori si interrogano sulle ragioni di questa scelta. Si parla di un cambiamento di territorio che potrebbe aiutarli a sopravvivere ad una crisi climatica. Oppure, semplicemente, un'altra ipotesi è proprio perché vogliono evitare il contatto con un ambiente che ovviamente è antropizzato e quindi ci sta una minaccia che non è solo dell'estinzione dovuta al riscaldamento climatico, ma è proprio la minaccia che è dovuta dagli esseri umani, e questa è una minaccia che in genere coinvolge non solo i pappagalli in questo caso, ma anche altre specie. E mi piaceva sottolineare come conclude uno di questi report su questo avvenimento, perché è molto bello come viene espresso, perché ci dice che il pappagallo Kea non ama molto la presenza umana e poi dice si tratta di una specie particolarmente intelligente. Adesso Adesso facciamo un'altra pausa musicale e ascoltiamo un altro gruppo che abbiamo già sentito. Sono le Ursidee Rap, è un gruppo di cui fa parte anche Emi, che abbiamo già sentito altre volte. Ed è una bella canzone come sempre di lotta e una canzone antispecista e femminista. De las chapas, reviéntalas. A los de la bolsa, hazles temblar. Dale más gasolina, quema el capital. Si viene con marca, pues tánchala. Está en todas partes, en tu casa, en tu cuerpo, asfixiando a los peces y mares. Que siga la máquina, que no pare. Compre, produce o muere. Si un anuncio andante te ha comprado una marca, ahora tú ya no eres nadie. Si vio su nombre en tus andares y así va el juego, lo que tienes, lo que vales. Y cada temporada un nuevo challenge, esclavitud, barbarie. El dinero nos aferra y contamina el aire. Infeliz por no tener las nuevas Nikes. Esa peña ha conseguido manejarte. A esos desgraciados hay que robarles y que paguen todo el mal que han hecho. Cada niña esclavizada a su interés. Que no llego a fin de mes, joder, que me vendes. ¿Cuánto pago? ¿Quiénes pierden con todo este tren? Que no pierden las marcas. Perdemos tú y yo. ¿Y quién cose en el Rilanca? Tacha la marca, táchala. La ciudad en llamas. Tantas cosas preciosas. No quiero compraros nada. Sigo mis pies, no se paran. El escaparate me quiere matar. Esa chupa bonita que tiene dos caras. La explotación de esa vida humana y también animal. Ruleta, rápida inercia. No voy contenta que nadie me mienta. Me preparo para cambiar el tercio. No me tiembla el pulso, tampoco los nervios. Invento remedios para el eco. Crisoles funden los apegos. Son superficiales. Aquí nada sobre quemar se reparte. Pa' encima lleva su estandarte. El arte no sirve de nada. Estampa atrapada. Olvidar del karma. No te viste en la chapa más ara. Será mejor que recicle tu alma. Yo me protejo del juego. Tacho la marca, no me doblego. Cuidado con ese veneno. La panacea que venden es dolor ajeno. Guiso de risa enlatada. Yo rompo la magia con esta fragancia. Robaron las almas, crearon deseos. Las comparaciones no se las deseo. Si buscan mejoras, empiecen por dentro. Tienen opciones de sobra. El bienestar que nos prometieron será taparnos de encima su sombra. Quítate las chapas, reviéntalas. A los de la bolsa, hazles temblar. Dale más gasolina, quema el capital. Si viene con marca, pues táchala. Táchala. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, quítate de ahí. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, quítate de ahí. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, quítate de ahí. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, quítate de ahí. Eccoci di nuovo in onda. Siamo arrivati ad una delle nostre rubriche che caratterizzano la nostra trasmissione, nello specifico è la rubrica Letture e visioni antispeciste. Questa settimana vogliamo leggere un brano che è stato pubblicato qualche giorno fa da uno dei blog che seguiamo con più interesse, che è quello di Resistenza Animale, sempre su No Blogs, perché ci parla sempre di azioni di resistenza animale. Insomma, è un blog attivo da anni e fa un'indagine e un attivismo sempre molto importante. Il brano che è tratto da un libro che si chiama Capannone numero 8 di Debolin Unfert, edizioni Sur. Questo brano che vado a leggere ci parla sempre di animali e resistenza animale. In natura le galline hanno combriccole complicate e voci distinte. Comunicano tra loro ancor prima che l'uovo si schiuda. La gallina cinguetta e canta e i pulcini rispondono dall'interno, pigolando e barbugliando e battendo contro il guscio. Le galline adulte hanno più di 30 categorie di conversazione, tutte con il proprio intreccio di gloglottii, strilli, zirli e gorgheggi. I polli spettegolano, chiamano, giocano, flirtano, insegnano, avvertono, compiangono, combattono, lodano e promettono. Ed è quest'ultima, la promessa, quella che interessa a noi. In un contesto di gabbia, una gallina se ne fa poco di gran parte di queste categorie di conversazione. Di conseguenza, il suo vocabolario si atrofizza o non si sviluppa mai del tutto, ma resta lì nel suo cervello che immagazzina ed elabora le informazioni in modo diverso dal cervello umano. Il cervello dell'uccello è più simile a un microchip ripiegato all'interno della corteccia, ben diverso dall'ingombrante motore a scoppio degli umani, pronto a riaffiorare nel momento del bisogno. E fu così che quando Boauk alzò la testa per guardare le galline rimaste nella gabbia da cui era appena caduta, si sforzò di comunicare e la sua mente si accese. Si svegliò alla vita. I ricercatori specializzati nel Gallus Gallus hanno isolato un particolare ciangottio. Se agglutinato alla fine di una vocalizzazione, questo suono significa qualcosa come «ci siamo». Quindi è un verso con cui una madre può dire ai suoi pulcini «venite quassù, pericolo, ci siamo». Se un maschio lo appiccica alla chiusa di un canto mentre si pavoneggia con una femmina, intende dire «passione, cibo, bambini, protezione, ci siamo, bellezza». In altre parole, questo ciangottio funziona come una forma rudimentale del verbo «al futuro». Quando la gallina con il cervello che si accendeva, partiva, ricominciava a funzionare, guardò le sue amiche in gabbia, le galline stringono amicizie e possono riconoscere più di un centinaio di altre facce di galline anche dopo mesi di separazione oltre ai volti umani, cercò un modo di trasmettere il pensiero complesso «tornerò a prendervi, ve lo prometto», frase che sia in gabbia che fuori, le galline hanno pochi motivi di pronunciare, visto che anche in natura amano stare vicine, vicine. E le venne in mente questo particolare ciangottio, e mise il suono del suo stesso nome, Boauk, e il verso del «ci siamo», poi scivolò giù dal mucchio di deiezioni e si allontanò. Lei non tornò mai, ma mandò qualcuno a prenderle. Questo era il brano veramente molto bello da Resistenza Animale, dal libro Capannone numero 8. Con queste parole ci salutiamo, la nostra trasmissione tornerà lunedì prossimo, domani martedì in replica alle ore 11. Ricordo la mail lamuccalibera@autoproduzioni.net, il canale Telegram La Mucca Libera. Detto questo, vi saluto, un abbraccio, un saluto a tutte e a tutti. My Lucifer is lonely, standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation, animals, evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell,